l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa. Siamo in diretta su Radio 24, come ogni settimana. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu è il portale del network Euronet Plus al quale apparteniamo, @euronetplus r24, oppure il mio account personale @FedericoTaddia su Facebook e su Twitter. Sono le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Tanta pressione politica ed economica sull'Europa in queste settimane, l'abbiamo appena ascoltato anche nel GR. Noi come sempre il sabato con il nostro programma cerchiamo anche altri punti di vista, altre sfaccettature, cerchiamo di raccontarvi anche l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, ma anche l'Europa delle criticità e chi cerca di affrontarle magari in modo diverso, e partiamo proprio da lì. Benvenuto a Stefano Felician, unico italiano nel board dell'European Youth Forum, che è il forum nazionale europeo, un'organizzazione che riunisce decine di associazioni europee impegnate per e con i giovani. Ciao Stefano, ben tornato all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi invitato di nuovo, è sempre un piacere essere qui con voi. Ti abbiamo ascoltato la prima volta appena eri stato eletto, oggi invece ti ho riconvocato perché mi interessava avere un po' il punto di vista del mondo giovanile su quello che sta succedendo in Europa in questi giorni, in queste settimane, dove il tema drammatico dei migranti è al centro, tema che sta facendo esplodere le tante Europe che compongono la nostra Unione, ma anche in parte in chiave positiva, perché è un tanti ragionamenti, tanti confronti, comunque utili, spero, per fare passi avanti. Voi come forum avete preso posizione? Sì, sicuramente noi abbiamo preso posizione e devo rivendicare che anche grazie agli input che vengono venuti anche dal forum italiano che io ho rappresentato e che anche rappresento nel forum europeo, fin da aprile del 2015 eravamo molto preoccupati per questa questione, questa escalation dell'immigrazione. Nei giorni recenti sono state fatte diverse iniziative e anche comunicati non solo dal Forum Europeo dei Giovani, l'European Youth Forum, ma anche dalla Social Platform, che è quella che riunisce tutte le principali organizzazioni europee che attive nell'ambito sociale, parliamo della Caritas Europea, Pax Christi, organizzazioni LGBT, e tutti noi siamo molto preoccupati. Forse è bello dire che in questo momento di contraddizioni, dove l'Europa fa vedere le contraddizioni dall'apertura della Germania alla chiusura della Danimarca, il mondo giovanile cerca di avere una visione unica e possibilmente inclusiva. Ecco, questo forse, direi, per riprendere quello che dicevi tu, potrebbe essere un segnale. Infatti ricordiamo che il forum raccoglie associazioni giovanili non governative, ma le istituzioni sono comunque i vostri interlocutori, nel senso che vi confrontate con loro. Sono piani molto diversi, quello che rappresenta il palazzo in questo momento e quelle che invece sono le posizioni dei giovani? Beh, viene anche da chiedersi con quali istituzioni un soggetto come lo European Youth Forum si rapporti. Certo. Mi spiego, e lo dico perché magari non tutti sono esperti di politica europea. Quando noi parliamo con la Commissione, quindi con il Presidente Juncker o il Commissario Navracsis, che è il Commissario dei Giovani, loro rappresentano un punto di vista naturalmente comunitario, cioè dell'Unione Europea. Poi c'è il Consiglio Europeo, che è il punto di vista governativo, espressione dei governi, che naturalmente ha punti di vista diversi. Juncker lo ha detto molto chiaramente, dice: noi Europa cerchiamo di fare la nostra parte, ma se i governi, gli stati, non si armonizzano in certi modi, sarà difficile avere una risposta coordinata. Quindi noi come forum europeo cerchiamo di indirizzarci sia da un lato verso le istituzioni europee, ma anche poi cercando di fare pressione nei nostri stati, sui nostri governi, che purtroppo ovviamente reagiscono in modi molto diversi, e lo vediamo, e questo è sotto gli occhi di tutti. Certo, di fatto rappresentate una generazione che è nativa in Europa, quindi rispetto alla generazione dei governanti che invece ha vissuto l'Europa delle disunioni, c'è un approccio diverso nell'affrontare le questioni, nel senso che le differenze, la voglia di non Europa nei giovani è minore, secondo te, rispetto a chi ci governa? Sicuramente devo dire che ci sono certe cose che Juncker, che il Presidente Juncker ha detto, che sono molto importanti, per esempio il riferimento che Schengen non verrà toccato. Sì. Schengen è il modo convenzionale con cui si parla della possibilità di poter viaggiare da uno Stato europeo all'altro senza bisogno di formalità, di visti, quello che permette, per essere concreti, di atterrare in aeroporto e di uscire senza bisogno di dogane, controlli particolari. Il fatto che per esempio questo tema non venga toccato, cioè che la Commissione lo voglia tenere com'è, per noi è molto importante, perché oggi moltissimi giovani si spostano regolarmente. Il diritto alla mobilità all'interno dell'Europa è un diritto fondamentale che ha unificato l'Europa, come dicevi tu. D'altro canto è anche bello vedere che su questi temi molte organizzazioni molto diverse, anche che vengono da spettri politici diversi, da stati diversi, cercano di parlare per cercare delle soluzioni. E questo è anche importante, perché forse può essere sul lungo periodo una cosa che può rendere l'Europa un po' più unita, diciamo così. Grazie davvero Stefano, ricordiamo www.youthforum.org, il sito dell'organizzazione europea, oppure forumnazionalegiovani.it per conoscere le attività nazionali. Ciao e buon lavoro! Grazie ancora, buona giornata a tutti, arrivederci. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Siete amanti della fotografia? Allora preparatevi, perché dal 15 al 28 settembre nel complesso del Sant'Artemio a Treviso saranno esposte le mostre fotografiche L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, storia dell'integrazione europea in 250 scatti e La cittadinanza dall'antichità ad oggi. I due percorsi sono stati ideati dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di comunicare l'Europa a livello nazionale e locale. La prima mostra, L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, ritrae i momenti più salienti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda a oggi, mentre La cittadinanza in Europa, dall'antichità a oggi, è volta a illustrare il concetto di cittadinanza nelle diverse valenze assunte nel corso delle differenti epoche, dal periodo greco-romano fino all'età moderna. Entrambe ripercorrono le tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo dell'Unione Europea, raccontando non solo l'Europa delle istituzioni, ma anche l'Europa dei popoli e dei cittadini. Per tutte le informazioni, visitate il sito www.politicheeuropee.it. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, vi ho detto in apertura che come sempre cerchiamo di raccontarvi l'Europa delle possibilità e l'Europa delle opportunità. Oggi lo facciamo mettendo al centro il lavoro, che è cuore nevralgico di un'Europa che possa funzionare, un'Europa che possa dare delle risposte. Do quindi il benvenuto a Marinella Colucci, coordinatrice nazionale EURES. Buongiorno Colucci, benvenuta all'altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Allora ricordiamo subito che cos'è EURES, questa piattaforma che favorisce la mobilità europea, giusto? EURES è la rete europea dei servizi per il lavoro, sì. Quindi è stata poi creata una piattaforma da parte della Commissione, e quindi è una rete da tutti gli Stati membri, da tutti i servizi per il lavoro degli Stati membri, per favorire la mobilità dei lavoratori. Mm-hmm. Dopo magari ricordiamo anche come funziona in pratica, perché è una rete molto capillare, dove ci sono per fortuna tante porte d'ingresso, non è un progetto solo sulla carta, ma è un progetto molto operativo. Però oggi torniamo proprio su EURES. E perché è stato lanciato una nuova piattaforma che si chiama Drop-in? Di cosa si tratta? Allora, Drop-in è un progetto della Commissione Europea che è stata finalmente lanciata il 22 giugno a Riga da parte del Commissario Europeo all'Occupazione, e nell'ambito dell'evento sull'Alleanza Europea per l'Apprendistato. Quindi si tratta sostanzialmente di una piattaforma in cui si possono registrare i giovani, quindi come coloro che cercano lavoro, quindi caricando il loro curriculum, quindi mettendo in evidenza i settori di interesse, l'esperienza fatta, la lingua, le lingue conosciute, appunto la lingua di lavoro, ma soprattutto è un modo in cui le piccole e medie imprese, nonché grandi imprese e organizzazioni non governative rendono conoscibili, quindi pubblicandole, le opportunità di tirocini, apprendistato, corsi di formazione, anche in e-learning. Quindi sostanzialmente è un luogo in cui i giovani si mettono in contatto tra di loro. Infatti ci sono anche dei momenti, ci sono blog, possibilità appunto di discussione tra di loro, ossia si mettono in contatto i giovani con le imprese, appunto per rendere conoscibili e di conseguenza fruibili tutte le opportunità, ripeto, sui tirocini, apprendistati e corsi di formazione. Certo, quindi insomma funziona sulla base di fatto di quella che è la piattaforma EURES, però ci si concentra di più su chi sta entrando nel mondo del lavoro, e l'idea è proprio questa, di mettere in contatto chi offre lavoro con chi cerca lavoro, però in tutta Europa. E questo significa ampliare tantissime le competenze richieste, perché credo sia questo il vero cuore del progetto. Sì, soprattutto fare in modo appunto che i giovani conoscano tutte le opportunità, diciamo è anche una sorta di sfida per i giovani, e appunto di mettersi in gioco facendo appunto un'esperienza anche in un altro stato dell'Unione Europea. Quindi certo, è un sito fatto e pensato per i giovani. E Colucci, invece torniamo ad EURES, quali sono le porte d'ingresso? Sì. Chi fosse interessato magari non ha voglia di smanettare direttamente sul proprio computer, e c'è anche la possibilità di essere accompagnati in questo viaggio verso la ricerca del lavoro, vero? Sì, assolutamente. Diciamo che il punto di forza della rete EURES sono i consiglieri EURES, che sono numerosi su tutto il territorio nazionale, quindi sono diramati sul territorio, quindi sia a livello regionale che provinciale e dei centri per l'impiego, e che offrono quindi assistenza, informazione, consulenza sia a coloro che cercano lavoro, sia ai datori di lavoro che sono appunto interessati a appunto promuovere le opportunità di lavoro per coloro appunto che cercano lavoro. Quindi presso i centri per l'impiego principalmente, anche se adesso l'idea anche a livello europeo e normativo e di ampliare la rete, quindi sia tra altri soggetti pubblici che tra i soggetti privati, appunto rendere possibile questi servizi appunto di assistenza, conoscenza e anche proprio di job matching, quindi di incontro domanda-offerta appunto tra datori di lavoro e coloro che cercano lavoro, quindi perché è una sorta quindi di bilanciamento tra domanda e offerta di lavoro in ambito europeo, per far sì che ci sia un reale ed effettivo abbattimento delle barriere tra gli stati membri. Quindi i centri per l'impiego, l'Europe Direct oppure il sito, cliccate EURES in un qualsiasi motore di ricerca e trovate davvero tutte le coordinate. Grazie davvero Colucci, buon lavoro. Esatto, e poi volevo ricordare secondo anche l'altra iniziativa, Office EURES Job, che è un altro progetto, sempre diciamo che nasce da un programma europeo e che con il Ministero del Lavoro e con un partenariato molto ampio offre forse opportunità sia di tirocini che di apprendistati in tutti gli stati membri per i giovani tra i 18 e i 35 anni. E anche sul sito Click Lavoro o sulla piattaforma yourself.eurosjob.eu tutte le informazioni disponibili. Ottimo, grazie ancora, buon sabato. Va bene, grazie, altrettanto, arrivederci. Europostit. Settimana europea della programmazione 10-18 ottobre 2015. Attenzione appassionati di tecnologia. Anche quest'anno, dal 10 al 18 ottobre, torna la Settimana europea della programmazione. Una serie di eventi, seminari, corsi, durante i quali milioni di bambini, giovani, adulti, insegnanti, imprenditori e politici si incontreranno nelle aule di tutta Europa per imparare a creare attraverso la programmazione. La settimana è frutto del lavoro di un movimento collettivo dal basso gestito da volontari che promuovono la programmazione nei rispettivi paesi. L'obiettivo sarà quello di dare vita a progetti e idee alla programmazione, rendendola più accessibile e comprensibile e motivando i partecipanti a impararne i segreti. Tutte le scuole, i ragazzi, i programmatori o le imprese che vogliano ideare e proporre la propria iniziativa sono invitate a inserirla sulla mappa del sito ufficiale della Settimana Europea della Programmazione, codeweek.eu. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. If you have one, here is something you can learn. You can still share. Sharing, sì, è sharing la parola chiave quest'anno della Settimana Europea della Mobilità, quindi non muoversi solo in maniera intelligente, non muoversi solo in maniera sostenibile, ma muoversi in maniera condivisa, che rende appunto la mobilità poi intelligente e sostenibile. Tantissime, veramente centinaia di iniziative in programma in tutta Europa e anche in Italia, dove si terrà una giornata nazionale della sharing mobility qui a Milano. Diamo il benvenuto a Francesco Larea, detto stampa della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'ufficio quello di Milano. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Allora, cosa succederà a Milano e soprattutto in che contesto si inserisce questo evento? L'evento di Milano inizia quella che è la settimana europea dedicata alla mobilità sostenibile. Si inizia appunto il 16 e si arriva fino al 21 settembre, che è la giornata internazionale senza automobili. La settimana, l'idea della settimana europea della mobilità nasce da un concetto abbastanza semplice, ossia due terzi degli europei vivono in città ed è proprio la mobilità urbana che è responsabile per una parte sostanziale dell'inquinamento, del cambiamento climatico. Sì. Si parla di 40% di CO2 prodotta nelle nostre città per il trasporto su strada e del 70% di altri elementi inquinanti prodotti appunto dalle nostre auto. Il tema della giornata di Milano è dedicato a un aspetto della mobilità sostenibile, come giustamente dicevi tu, si parla di sharing mobility, la mobilità condivisa, perché vuole porre l'accento non solo su quello che è stato fatto a livello italiano in questo senso, ma anche a livello europeo. Quindi ci saranno anche una serie di incontri per parlare di mobilità urbana sostenibile e aumentare un po' la sensibilità di tutti noi sugli effetti delle nostre scelte individuali di trasporto, pubblico, privato o combinare le due, e favorire ovviamente lo scambio di quei comportamenti virtuosi, di quelle politiche virtuose in Europa. Certo, perché insomma, esatto, questo è sempre il concetto fondamentale un po' di questi appuntamenti, no? Far circolare le buone pratiche. Senz'altro far circolare le buone pratiche, infatti l'evento di Milano presenterà delle buone pratiche italiane, ma anche olandesi e francesi. Si vuole appunto creare uno scambio tra diversi paesi che hanno avuto in mente diverse soluzioni per un problema che sostanzialmente lo stesso: migliorare la qualità del nostro trasporto urbano. Si parla di condivisione perché ormai se pensiamo per esempio al car sharing o al bike sharing, utilizzare le vetture condivise o le biciclette condivise, ormai fanno parte della nostra vita quotidiana in città. Certo. L'evento di Milano del 16 parlerà magari delle prossime frontiere, come la condivisione per esempio dei parcheggi. Uh-huh. O la possibilità magari di, ecco, dare un maggiore slancio a attività che erano già presenti, come il carpooling, che sarebbe mi faccio dare un passaggio da una persona che fa lo mio stesso tragitto, però non solamente in città, anche su lunghe distanze. Sappiamo tutti che ci sono dei siti, delle applicazioni che offrono questo tipo di servizio, a chi viaggia da un punto A a un punto B e decide magari di farlo con altre persone per non solo risparmiare ma anche ridurre l'impatto sull'ambiente. Insomma, l'idea è proprio quella di guardare un po' oltre, guardare un po' avanti per cambiare le nostre abitudini quotidiane. A Milano l'appuntamento si terrà al Museo della Scienza il 16 settembre, se non erro. E, il sito di riferimento per avere le informazioni è quello della rappresentanza? Allora, c'è sia il sito del Ministero dell'Ambiente, sì. minambiente.it, oppure fondazionesvilupposostenibile.org, che è un ente che assieme al governo italiano e alla Commissione europea ha organizzato questa giornata a Milano il 16 settembre. Perfetto, grazie davvero Francesco, buon lavoro. Grazie, buon sabato, buon lavoro. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europostit. Progetto europeo Motion. Avete più di 65 anni e siete alla ricerca di un'attività motoria equilibrata e costante che vi aiuti a mantenervi in forma? Allora tenetevi pronti, perché nel mese di novembre partirà il progetto europeo Motion, parte del programma europeo Active Assisted Living, che promuove l'invecchiamento in buona salute. Motion consente alle persone over 65 di usufruire dei corsi di ginnastica dolce direttamente da casa, attraverso un sistema di videoconferenza con coach professionisti che aiutano a migliorare le condizioni fisiche evitando rischi di sedentarietà. Motion è particolarmente indicato per le situazioni in cui il partecipante ha difficoltà a recarsi fisicamente in palestra. La durata del corso sarà di 7 mesi, da novembre 2015 a giugno 2016, con lezioni bisettimanali di un'ora. In questa prima fase del progetto, le iscrizioni saranno aperte ai soli cittadini di Bologna e provincia e dovranno essere effettuate entro il 20 ottobre sul sito http://motion-project.eu/it. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia per trovarmi su Twitter, radio24.it, il nostro indirizzo da dove poter riascoltare o scaricare la puntata e tutti i nostri Europostit con relative indicazioni. Continuiamo a parlare di questa Europa e lo facciamo con un libro, sapete che comunque ci piace anche suggerirvi letture di attualità in grado di aprire nuovi ragionamenti, scatenare nuove suggestioni. Il titolo è Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi. Do il benvenuto all'autrice di questo libro edito da Marsilio Editori, e la collega Eva Giovannini. Ciao Eva. Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, guarda, vorrei partire dalle prime righe. Uno dice, vabbè, hai letto solo quelle, quindi facile. Però, però credo che siano un po' la grammatica poi di quello che hai tentato di raccontare. Cosa sì. C'entra Archimede, la legge di Archimede in particolare, con l'Europa di oggi? Ecco, buona domanda. Io inizio la mia introduzione dicendo: un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Questa è la legge di Archimede e secondo me questa è un po' una grande metafora in questo momento. Cosa sta succedendo in Europa? Ci sono una serie di corpi immersi, diciamo, in fluidi che creano dei mutamenti di livelli, di equilibri, no? E quindi i movimenti che i corpi, ovviamente, diciamo, la metafora sarebbe fin troppo semplice, non sono soltanto quelli umani, no? Certo. Ahimè, che affogano ogni giorno nel Mediterraneo, che in questo caso si fa come una grande vasca, no? Proprio una vasca di Archimede. I corpi sono anche corpi, diciamo, non umani, sono ad esempio la moneta unica. Questa Europa è scossa dall'iniezione, diciamo, di eventi esterni che ne alterano gli equilibri. E cosa sta succedendo? Dopo 13 anni l'euro ancora non è stata digerita, le migrazioni sono sempre più grandi e l'Europa è sconquassata. E quello che emerge è un sentimento funesto, no? Che rischia di disperdere il patrimonio di speranza che almeno due generazioni hanno accumulato nei confronti del sogno europeo e ci sono dei protagonisti politici di questa stagione che io diciamo chiamo gli imprenditori del pessimismo, che invece ecco che capovolgono la legge di Archimede e soffiano diciamo dall'alto verso il basso, no, sul fuoco di queste inquietudini, che sono inquietudini che vanno ascoltate. Io cerco nel mio libro di non giudicare troppo, tranne i casi più estremi, diciamo i militanti di questi movimenti, sì. Uh-huh. Perché credo, poi magari avremo modo di parlare più avanti, credo che ci siano e siano sotto gli occhi di tutti delle ragioni reali, non inventate, non basate su disegni diciamo appunto di tipo di stampo razziale specificamente. Credo che ci siano invece delle ragioni reali legate molto all'economia che portano a avere molta paura e quindi anche ad affidarsi a movimenti che offrono soluzioni un po' più facili e diciamo chiave in mano. Certo, Grecia, Germania, Francia, Ungheria, Regno Unito, Italia, alcune delle nazioni che hai toccato, queste ragioni o questa ragione? C'è un filo conduttore che lega questi venti, questi movimenti? Allora, il filo conduttore è doppio e va da un lato dalla paura del diciamo proprio del diverso, quindi del migrante che attraversa l'Europa, che arriva a vivere qui e quindi la voglia di ritornare alle frontiere. Questo unifica tutti i movimenti che io ho attraversato, dall'Ungheria a Marine Le Pen, passando per Alba Dorata e l'UKIP in Inghilterra. L'altro elemento è la sfiducia e in alcuni casi proprio l'odio verso la moneta unica, e questi diciamo sono i due tratti che unificano tutti i movimenti che io definisco di destra, loro non si definirebbero tali. Mm-hmm. Anche questo è un altro tema, e ovviamente insomma ci sono anche molte differenze tra questi movimenti, non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa gradazione diciamo di nazionalismo. Però questi sono i due elementi importanti diciamo che portano a far sì che siano ascrivibili diciamo in un unico grande disegno nazionalista. Mm-hmm. Ovviamente tu fai l'inviata, sei abituata a stare a contatto con le persone, a tastare il polso delle situazioni. Hai cercato, immagino, di scavare al di là degli slogan, al di là delle frasi facili, al di là della prima risposta. E sotto alla fine c'è questo, è la paura che fa la non Europa. Sì, la paura è forse diciamo il substrato psicologico emotivo, no? Che poi determina alcune scelte politiche e è senza ombra di dubbio il collante di questi movimenti. Quasi potremmo definirli tutti accomunati da uno sciovinismo del welfare, no? Il terrore che gli altri si approprino del nostro poco benessere, che sia esso in termini di sanità pubblica, pensioni, sussidi, eccetera. Quindi la paura di perdere, la paura di quel poco che si ha, come ha definito la sociologa professoressa Gualmini, questo diciamo nazionalismo patrimoniale, no? In qualche modo, cioè che c'è proprio la paura di perdere ciò che si ha, perché oggettivamente questo è un continente con varie gradazioni, tutto attraversato in questi ultimi anni da una crisi profonda. È evidente che insomma non sono una storica, sì, certo, ma il richiamo agli anni 30 diciamo è presto fatto, insomma tutto iniziò con una enorme crisi economica allora, e gli esiti sono stati nefasti, nessuno si augura che oggi ci sia qualcosa di simile, né io lo dico in questo libro, però insomma c'è da stare sempre attenti. Anno zero come punto d'arrivo o come punto di partenza? Questo dipende da cosa succederà. Okay. Questo è l'anno zero. Se si rifonda l'Europa, diciamo, se capiscono, io inizio con Archimede e in apertura cito diciamo come citazione iniziale del libro Kuhn, la struttura delle rivoluzioni scientifiche, perché secondo me in questo momento non è un male che siano saltati tutti i paradigmi, no? Che conoscevamo, cioè così come ci insegnano gli scienziati, quando è che si hanno le rivoluzioni scientifiche? Quando i dogmi diciamo che fino a quel momento erano ritenuti tali dimostrano la propria fallacia, ecco in quel momento uno scienziato può rendersi conto di essere di fronte a una rivoluzione possibile in termini scientifici. Lo stesso vale per la politica, probabilmente i paradigmi sono saltati. Se si ha la lucidità di capire, se i nostri governanti hanno lucidità di capire che il momento di rifondarsi, quindi di cambiare i parametri interpretativi e d'azione è arrivato, bene, se no questo sogno secondo me arriverà presto al capolinea. Esatto, lucidità e creatività, che nella scienza e spero anche nella politica spesso è una risorsa non abbastanza utilizzata. Europa No Zero, il ritorno dei nazionalismi, edito da Marsilio Editori, Eva Giovannini. Grazie davvero Eva, in bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao, a voi, sabato. Buona ciao, lettura, ciao. Ciao. Europost-it. Settimana della cultura scientifica e tecnologica. A tutti i cultori della tecnologia. Torna la settimana della cultura scientifica e tecnologica, che quest'anno si svolgerà dal 12 al 18 ottobre. Nel corso della settimana avranno luogo una serie di eventi, mostre, incontri e iniziative organizzati in tutta Italia e aperti a tutti, in particolare agli studenti, perché diventino protagonisti del processo di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti della scienza e del suo impatto sulla vita quotidiana. La rassegna è promossa dal MIUR e quest'anno verterà su temi di attualità quali scienza e alimentazione, 2015 Anno Internazionale della Luce e delle Tecnologie Basate sulla Luce, e l'impatto sociale delle tecnologie della comunicazione. Enti di ricerca, università, scuole, musei, associazioni, aziende, amministrazioni locali, istituzioni culturali e scientifiche che volessero proporre una propria iniziativa all'interno del programma della settimana sono invitate a caricarle nella sezione denominata Plinio sul portale web Sirio http://roma.cilea.it/portale-miur. Le proposte dovranno essere inviate tra il 21 settembre e il 5 ottobre. Parlato dell'Europa partendo dal principio di Archimede. Professor Dumas, anche lei ha utilizzato il principio di Archimede? Sì, in parte sì, certo, è la spinta di galleggiamento quella che fa andare i indirigibili, soltanto che Archimede l'ha scoperto nell'acqua, no? Mentre noi lo applichiamo in aria, insomma, diciamo così che un dirigibile e un sommergibile praticamente sono strumenti, sono sistemi simili. Allora, benvenuto al professor Antonio Dumas, professore dell'Università di Reggio Emilia e coordinatore generale del progetto MAT, è un progetto finanziato da fondi europei e che ha portato alla progettazione, alla realizzazione di un prototipo molto particolare. Stiamo parlando di un dirigibile. Ci fermiamo un attimo, le informazioni per il traffico, poi professore, siamo immediatamente da lei. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta L'altra Europa. Un finanziamento europeo di 6 milioni di euro per questo innovativo progetto reso concretizzato e messo a punto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Professore, di cosa si tratta e perché il ritorno al dirigibile? Una piccola correzione. Il progetto fu finanziato, un progetto di 5 milioni di euro. Il progetto doveva dimostrare la fattibilità, sì, di un sistema binario, un aeromobile che sta sempre in quota e gira per i cieli, sempre in quota, e altri aeromobili che salgono e scendono portando merci e persone. Okay. Questo è noi abbiamo dimostrato la fattibilità, non abbiamo realizzato il prototipo, abbiamo soltanto realizzato alcuni dimostratori, per esempio, che tutto il meccanismo di aggancio del sistema che sale e scende, che si chiama feeder, insomma una navetta, e del sistema che sta effettivamente sempre in quota, che si chiama cruiser. Noi abbiamo realizzato appunto un dimostratore che l'aggancio e i meccanismi con cui l'aggancio si può fare. Questa è una delle cose. Poi la dimostrazione della fattibilità energetica, sì, perché il sistema deve stare deve essere energeticamente autosufficiente e lo è tramite l'utilizzo dell'energia solare e pannelli fotovoltaici che producono poi idrogeno e ossigeno per il deposito buffer di transizione durante la notte e producono energia elettrica, voglio dire, per il trasporto. Professore, ma questi numeri che leggo in questo articolo che ho trovato, quindi 300 persone trasportate in 4 ore da Milano a Parigi, quella è una delle opzioni che noi avevamo. È possibile realizzare il sistema per 300 persone, le navette potranno portare anche 50-60 persone. Questo è un dettaglio in fase realizzativa, no? Faccio un esempio. Sì. Noi siamo partiti con l'ipotesi che dovesse volare ad aria ferma a 200 km all'ora, quindi casomai ipotizzando l'utilizzo di correnti aeree aumentare la velocità. Siamo riusciti a dimostrare che il cruiser, cioè l'aeromobile che sta sempre in quota, che è un dirigibile anch'esso, no? In realtà, allo stadio attuale possiamo garantire che vada a 150 km all'ora. Ma professore, lei se la immagina davvero un'Europa dove potremo vedere volare aerei low cost e dirigibili in perfetta convivenza? Prima di tutto gli aerei low cost vanno a quote che sono al di sotto degli 11, dell'ordine dagli 11 ai 12 al massimo mila metri. Sì. Il cruiser va al di sopra dei 15-16. E la sicurezza è garantita? Beh, molto più degli aerei, nel senso che se per caso il tutto, una delle dimostrazioni, delle analisi, se il sistema completamente salta in aria, brucia il pallone, cioè la parte di galleggiamento, sì, sparisce, tanto per essere drastico, no? In realtà c'è la potenzialità, la possibilità che la struttura rigida dove ci sono le persone e le merci può scendere a terra con sistemi di galleggiamento che sono paracadute e o anche palloni che nascono, no, durante la caduta, durante i primi secondi di caduta. E quindi il livello di sicurezza è molto più ampio di quello degli aerei. Professore, ma per lei e per il suo gruppo di lavoro, immagino anche giovani ricercatori, giovani studenti, cosa significa trovarsi a gestire comunque una bella somma di denaro stanziata dalla Commissione europea? Tenga presente che sono 12 partner, 8 università, 4 aziende, 5 paesi europei, un paese, un russo, la Russia e l'Uruguay. Quindi insomma un bel incontro di test. Ecco, cosa si prova a gestire tutto questo e imbarcarsi nel vero senso della parola in un... È piacevole, è gradevole, è intrigante. Infatti voglio dire, anche se io adesso fra 2 mesi vado via dall'università, sto cercando, abbiamo realizzato una startup innovativa per la continuazione di questo, chiamatelo sogno, ma in realtà per me è una realizzazione a tempi estremamente brevi. Per cui la cosa che andrò alla ricerca è di finanziamenti. Chi è interessato a partecipare all'azionariato di questo progetto, voglio dire, basta che mi contatti, insomma. Insomma, mi sembra un ottimo appello. Grazie professore. Vi dirò una cosa, ecco, la dico breve. Prego. La tempistica per una piattaforma stratosferica, per un aeromobile che sta in quota e in stazionamento, è di 3 anni come prototipo operativo, e invece il dirigibile MAAT occorrerebbero altri 2-3 anni in più. Ma questo con i finanziamenti si riduce anche il tempo. Perfetto, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie professore. Grazie a lei. Europostit. Ami la natura e gli animali? Ti piacerebbe lavorare in una fattoria sperimentale in Scandinavia? Grazie all'associazione Scambi Europei puoi partire per un volontariato internazionale in Svezia, all'interno della City Farm di una ONG. Il servizio volontario, promosso nell'ambito di Erasmus Plus, inizierà a marzo 2016 e avrà durata di 1 anno. L'organizzazione ospitante è una ONG che si occupa di disabilità nei bambini, nei ragazzi e negli adulti fino a 40 anni, attraverso la promozione di attività all'interno di una fattoria cittadina sperimentale nella quale natura, animali e centro urbano si incontrano e dove gli ospiti disabili dell'associazione possono usufruire dell'ambiente naturale come efficace terapia. I volontari opereranno proprio nella City Farm, occupandosi di giardinaggio ma anche degli animali, oltre ad aiutare lo staff locale in alcune delle attività del centro. Per informazioni cercate l'offerta di volontariato internazionale in Svezia sul sito www.scambieuropei.info. Questi sono i nostri Europostit. Vi ricordo che tutto ciò lo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre pagine Twitter e Facebook. Il mio account personale @FedericoTaddia. Termina qua questo appuntamento con l'Altra Europa. Un grazie a Claudia Schiattone oggi in assistenza. La parte tecnica invece c'era Andrea Roccabella, tutto lo staff del programma che ha contribuito alla scrittura, alla ricerca degli ospiti, alla ricerca delle notizie. Appuntamento come sempre a sabato prossimo. Se volete contattarci durante la settimana, la mail della redazione è l'altraeuropa@radio24.it. Come sempre, grazie, come sempre, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.